Il punto di Stefano Folli. Può essere positivo che magistrati famosi decidano di impegnarsi in politica per correggere le deformazioni del nostro sistema. È un po' meno positivo, ma è inevitabile, che alcuni di loro decidano di investire la propria notorietà, il patrimonio mediatico di cui sono in possesso, al tavolo di questo o quel partito. È invece negativo che questa presenza politica non si risolva in un chiaro e definitivo distacco dalla magistratura. Chi decide per la politica esercita un diritto costituzionale, ma non è opportuno che si crei una specie di ascensore per cui si entra e si esce dalla magistratura a seconda delle fortune parlamentari. Giusta l'aspettativa elettorale per Grasso, Ingroia, D'Ambrosio e altri, ma chi è eletto dovrebbe poi sentire il dovere di separare in modo netto le carriere, o si è parlamentari o si è magistrati. Le commistioni sono dannose, anche se in Italia sono la norma. È un partito che voglia essere credibile quando promette le riforme, dovrebbe cominciare di qui, dal chiedere ai propri magistrati candidati un impegno al taglio definitivo. Succederà? Scommettiamo di no.